Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Allo studio il riconoscimento di un buono mobilità alternativa per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, pari ad euro 200 per l'acquisto di biciclette anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, i monopattini, ovvero anche per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Si è proposto di introdurre nel codice della strada la definizione di bike lane, ovvero una corsia con destinazione prioritaria alla circolazione dei velocipedi, nella quale è consentita la circolazione anche dei veicoli a motore con numero totale di ruote non superiore a 3. Buon pomeriggio, buona domenica, questa era la voce della ministra dei trasporti De Micheli che pochi giorni fa ha annunciato incentivi per le e-bike ma anche le bike lane, cioè percorsi condivisi tra moto e bici, una proposta naturalmente, ne parleremo più avanti perché già sta scatenando parecchie polemiche, ma sono misure annunciate, ancora non confluite in nessun provvedimento. Ma oggi siamo alla vigilia dell'allentamento delle restrizioni, domani si sposteranno oltre 3 milioni di lavoratori in più, ma come si sposteranno? Il governo, come sappiamo, ha detto di voler puntare anche sulla mobilità alternativa, la bicicletta in primis, mezzo che oltre a permettere il distanziamento sociale e ad avere tante altre qualità, impedisce il congestionamento delle nostre città. E allora vediamo come si stanno organizzando le due principali città italiane, Roma e Milano. Partiamo da Milano con l'assessore alla mobilità Marco Granelli. È chiaro che noi dovremmo cambiare la domanda, cioè riuscire a spostarci secondo le regole che ci stanno dicendo i sanitari, cioè mantenendo le distanze, abbiamo bisogno di diminuire il numero di spostamenti e per questo bisogna continuare a fare massiccio uso di lavoro a distanza e poi bisogna usare il più possibile tutti gli strumenti di trasporto, cercando di privilegiare quelli che ci danno meno problemi di traffico e di inquinamento. Dobbiamo utilizzare di più le due ruote, perché le due ruote occupano meno spazio e quindi sono una buona risposta rispetto al problema del traffico e ci aiutano anche dal punto di vista ambientale. Come pensate di incentivare l'uso della bicicletta? Per usare di più la bici abbiamo bisogno di rendere più sicuro la circolazione in città con la bicicletta. Milano ha circa un 220 km di percorsi ciclabili. Noi abbiamo presentato un piano con la realizzazione di primi 23 chilometri nuovi di percorsi ciclabili, sostanzialmente tutti in segnaletica e quindi che potranno essere a disposizione dei cittadini nel corso dell'estate. I primi da metà maggio e poi man mano nel corso dell'estate, e stiamo lavorando per implementare ulteriormente questo piano usando il più possibile modalità smart e quindi la segnaletica. Questo è possibile farlo grazie a alcune interpretazioni di cui abbiamo avuto l'assenso nei giorni scorsi dal Ministero, cose che appunto chiedevamo da tempo. Siamo riusciti a individuare delle modalità, ad esempio che la pista tracciata in solo segnaletica possa arrivare fino alla linea d'arresto dell'incrocio, prima doveva fermarsi in anticipo creando il disagio al ciclista, poco sicuro le manovre dell'incrocio, mentre in questo modo viene creata una linea d'arresto avanzata, diciamo, per le biciclette, in modo che le biciclette possono posizionarsi davanti alle auto quando si parte con il verde. In questo modo è più sicuro perché il veicolo, l'autista dell'auto vede davanti il ciclista e quindi ha meno rischi di incidente. Senta, al di là delle piste ciclabili, invece gli incentivi al bike sharing, all'acquisto di bici, il governo ci sta pensando, ma come comune, quali sono, avete delle idee, delle iniziative? Noi abbiamo intanto già in essere un incentivo, un bando con cui contribuiamo all'acquisto con il 50% del costo per la bicicletta elettrica, il cargo bike e anche lo scooter elettrico a chi rottama un vecchio mezzo diesel. Questo era un bando già esistente, un bando che già avevate? Sì, abbiamo, però lo stiamo potenziando e questa è una prima misura messa a disposizione. Poi stiamo lavorando con le società di sharing. Noi abbiamo pubblicato ieri un aggiornamento dell'avviso del bike sharing, free floating, più semplificato, che permette alle aziende di mettere in campo altre 8.000 biciclette anche a pedalata assistita del bike sharing. E poi siamo i ipotizzando anche semplificazioni sul tema monopattini, sul tema scooter, sempre a Schengen. Questa dunque Milano, vediamo come si sta preparando Roma per la mobilità a due ruote nella fase 2. Il presidente della Commissione Trasporti del Campidoglio, Enrico Stefano. Salve, intanto grazie per il coinvolgimento e l'opportunità di raccontare cosa sta facendo la città di Roma per la mobilità nella fase 2. E, assolutamente, il punto di partenza dal quale siamo appunto abbiamo cominciato a ragionare è stato quello di favorire il più possibile nella fase 2 la mobilità sostenibile, poiché visto anche il mancato utilizzo, la mancata possibilità di utilizzare appieno il trasporto pubblico, è importante fornire delle alternative ai cittadini e agli utenti per evitare che si riversino tutti sulle automobili private e quindi congestionare la nostra città. Quindi puntiamo molto su questa modalità di trasporto. Siamo partiti intanto da quanto già pianificato nel PUMS, nel piano urbano della mobilità sostenibile, e tutta la rete ciclabile lì prevista, che è una rete ciclabile prettamente su viabilità principale, perché siamo convinti che la bicicletta è un veicolo e quindi debba avere pari dignità. Quindi partendo sulla rete pianificata nel PUMS ci stiamo attivando, adoperando per realizzare queste ciclabili che abbiamo definito transitorie, quindi non di emergenza, perché sono l'inizio di una sistemazione che poi sarà più definitiva e strutturata, e verranno realizzate principalmente con un impatto leggero appunto in questo primo momento, in questa prima fase, quindi principalmente con segnaletica orizzontale e verticale a sinistra delle automobili in sosta, questo per poter velocizzare anche tutta la parte autorizzatoria e burocratica, quindi senza dover fare progetti troppo impattanti anche dal punto di vista amministrativo, perché questo avrebbe inevitabilmente allungato i tempi. Puntiamo a fare un primo lotto, un primo pacchetto, diciamo così, di ciclabili di circa 40 km lungo appunto la viabilità principale. Stefano, incentivi all'acquisto di bici oltre a quelli che dovrebbero arrivare dal governo potrebbero esserci? Chiaramente da questo punto di vista le risorse di Roma Capitale, come di tutti gli enti locali, difficilmente potrebbero consentire una campagna di incentivi diciamo così di massa e sistematica. Diverso il discorso appunto se ci fossero dei fondi del governo, altrimenti solamente con le risorse di Roma Capitale lo vedo onestamente un pochino difficile. Chiaramente stiamo lavorando molto anche con gli operatori di bike sharing, che già sono operati nella città, che hanno messo in campo diverse iniziative e tariffe per venire incontro agli utenti in questo momento difficile. Abbiamo su questo tema realizzato un impianto normativo molto snello ed efficace, che consente l'entrata in maniera continua di potenziali nuovi operatori. C'è poi un gran dibattito sull'apertura della ZTL per tutto il 2020 a Roma, sulla quale sono assolutamente contrarie le associazioni ambientaliste. Personalmente è una misura che non mi trova d'accordo, perché come dicevo anche in precedenza, nella fase successiva all'emergenza andrà disincentivata la mobilità privata e favorita la mobilità sostenibile. Aprire la ZTL sortirebbe invece l'effetto contrario, incentiverebbe i cittadini ad utilizzare il mezzo privato, e soprattutto non sarebbe una soluzione per raggiungere il centro storico, perché si creerebbe maggiore congestione, e poi in ogni caso nell'area all'interno della ZTL non ci sono parcheggi, quindi chi vorrebbe arrivare in centro in automobile non saprebbe poi dove parcheggiare. E allora abbiamo accennato al bike sharing, le bici in condivisione. Sappiamo che entrambe le amministrazioni di Roma e Milano vogliono puntare su questo servizio. Allora sentiamo come si stanno preparando queste società, il general manager di Uber Jump, Fabio Stefanini. Sì, innanzitutto stiamo rimettendo in moto fondamentalmente le nostre operation. Quindi mettere in moto le nostre operation significa, da un lato, rimettere per strada le biciclette, ma sappiamo che questo non è sufficiente, no? Non è sufficiente in un momento in cui, comunque, anche quando gradualmente usciremo da questo lockdown, ci sarà bisogno di pensare alla bicicletta in un modo diverso, cioè di rendere disponibile la bicicletta agli utilizzatori, ma anche e soprattutto di pensare a come renderla sana da un punto di vista di sanificazione, per assicurare che tutte quante le persone possano utilizzare questo mezzo senza avere nessun tipo di problema di contatto di Covid. E quello che abbiamo fatto è dedicare un team di persone che per strada si occupano di sanificare la bicicletta, quindi fondamentalmente di pulire con dei panni sanificati tutte quante le aree che vengono toccate dall'utente, e piuttosto che spruzzare del liquido igienizzante sulla bicicletta, quindi assicurando di fatto per tutto quanto quello che possiamo che la trasmissione del virus sia il minore possibile. Pensate di sbarcare anche a Milano? Sì, cioè, stiamo notando in generale un rinnovato interesse da parte delle amministrazioni comunali verso questo tipo di servizio, perché chiaramente l'idea è che è un servizio che può garantire un livello di distanziamento sociale alle persone utile per minimizzare la trasmissione del virus. E quindi di fatto siamo contattati da diverse amministrazioni. Milano è sicuramente una di queste, e Milano infatti si sta muovendo molto velocemente, da pubblicato pochi giorni fa un bando specificamente per il bike sharing, al quale noi siamo chiaramente interessati, essendo Milano una città importante per il nostro sviluppo all'interno della nazione. Che risposte vi aspettate dall'utenza romana, visto che non ci saranno i turisti? Ci aspettiamo un aumento, non sono sicuro se questo aumento partirà dalla prossima settimana, nel senso che è vero che c'è la fine del lockdown, ma è graduale, no? Io penso che effettivamente l'utilizzo incomincerà a scalare nel momento in cui probabilmente dal 18 riapriranno negozi piuttosto che le mostre, eccetera eccetera. La nostra aspettativa è che il servizio, la richiesta di servizio aumenti, e che dall'altro lato però ci sia sicuramente, almeno per quest'anno, un impatto minore del turismo, perché le persone chiaramente si muoveranno molto meno, quindi sarà un utilizzo più locale ma probabilmente più intenso rispetto a quello che vedevamo prima. Insomma, da domani più bici per strada, anche perché sarà possibile l'utilizzo delle due ruote anche per l'attività motoria lontana da casa. Staremo a vedere cosa succederà nelle nostre città. Intanto vi lasciamo con la quartina di Alessandro Ricci. Buona domenica, ciao! Tripla o mono o doppia ovale, adesso qualsiasi corona vale. Parlo di quella della bicicletta, che in garage lucida aspetta.